9 in punto, la versione di Oscar. Un buon 7 aprile, spero che veramente abbiate messo dietro le spalle la pesantezza dei giorni di vacanza e siete tornati felici a fare quello che dovremmo fare di più tutti i giorni. Vado sempre in controtendenza, cioè lavorare felici e aumentare la produttività, no? Detto questo, che non è solo una battuta, però oggi, come avete sentito al nostro lancio, ci occupiamo di una riflessione un po' di fondo su uno dei protagonisti del sistema dell'intermediazione finanziaria e bancaria del nostro paese, poiché viviamo in un paese che ha la caratteristica in cui l'intermediazione finanziaria è pressoché tutta impegnata sulle banche, ma naturalmente non tutte le banche sono uguali, anzi diciamo che nel consolidamento bancario che abbiamo alle spalle negli ultimi 15 anni il consolidamento ha interessato le banche private in forma di SPA, che sono diventate poi, unendosi con circa 150-180 istituti bancari in meno nel complesso, l'effetto del consolidamento è stato questo, e poi hanno prodotto i maggiori istituti privati commerciali. Ma detto questo, il sistema bancario si caratterizza anche per una componente molto forte, una componente di banche di tipo mutuatario, cooperativo, le banche di credito cooperativo appunto, e questa componente del sistema bancario italiano, che era una componente che ad alcuni sembrava prima della crisi quasi una specie di orgogliosa, ma per certi versi superata, sopravvenienza del passato, cioè di una storia dell'evoluzione del sistema bancario italiano fortemente intrecciata dai primissimi anni del Novecento alle forme, quelle delle casse locali, che avevano rappresentato l'ingresso nel mondo dell'intermediazione finanziaria di vaste categorie di italiane dell'Italia rurale, e che avevano visto intorno all'organizzazione di questi istituti locali alcune figure forti, carismatiche, che ne avevano dato quindi un forte radicamento territoriale, ma per molti versi insomma una realtà quasi sorpassata. Ecco, invece no, perché abbiamo scoperto, numeri alla mano, solidità degli attivi patrimoniali alla mano, numeri alla mano di una molto, molto, molto minore riduzione degli impieghi rispetto a quella verificatasi da parte del sistema delle banche private, delle grandi banche private commerciali del nostro paese, abbiamo, man mano che la crisi procedeva, scoperto che il sistema delle banche di credito cooperativo in realtà non era affatto quella mera sopravvenienza del passato che alcuni immaginavano, non era affatto una pura caratteristica di un passato di cui andare orgogliosi, ma che in definitiva poi aveva una bassa redditività, attivi patrimoniali ristretti, e quindi non poteva essere un grande moltiplicatore per le imprese che chiedevano impieghi. In realtà, piano piano, ci si è dovuti arrendere di fronte a un'evidenza, che questa componente, che poi a sommarla è una componente essenziale, un po' come se fosse il terzo soggetto bancario italiano, anche se naturalmente poi le centinaia di BCC rimangono con la loro individualità e una loro gestione separata, ma sommando il sistema in quanto tale è come se fosse il terzo grande polo del sistema bancario italiano. E pian piano, man mano che i mesi passavano, l'attenzione è cambiata, i media sono tornati a guardare a questo mondo con l'attenzione che prima non avevano più, perché è ovvio che grandi titoli, le grandi pagine, il più del tempo del radioascolto si dà alle grandi banche, quelle che impiegano miliardi e miliardi e che fanno il bello e il cattivo tempo con i loro amministratori delegati. E noi oggi, come spesso capita dai microfoni di Radio 24, è capitato anche al direttore di fare puntate dedicate a questo, invece diamo grande attenzione al mondo delle banche di credito cooperativo, e io in particolare, a dire la verità, da prima della crisi e durante la crisi continuo ad avere una grande attenzione per queste banche, perché confido che possano essere dei protagonisti, delle manleve, dei garanti, come dimostrano i numeri, di un sistema di crescita italiana fondata sulla convinzione che il 99%, cioè l'impresa piccola italiana, sia una forza del nostro paese e non un difetto. Ecco la mia opinione, e per questo bisogna occuparsi con più attenzione di raccontare agli italiani qual è la vera realtà del nostro sistema bancario, non per dire questo è il bene e l'altro è il male, ma, fine della mia introduzione, semplicemente per spiegare che nelle caratteristiche proprio del sistema delle banche mutuatarie cooperative stanno alcune caratteristiche di fondo che non potevano essere esaltate dalle ragioni della crisi. Una crisi che nasce perché si fanno impieghi a troppo alta leva finanziaria, a bassa congruità patrimoniale, cioè avendo poco capitale accantonato per capitale intermediato, in realtà non poteva che non colpire istituti che infatti hanno da sempre praticato una minore leva, hanno da sempre praticato quello che si chiama, e ne parleremo oggi a lungo, il relationship banking, cioè un modello di impieghi e di raccolta largamente proporzionata agli impieghi, che va oltre gli impieghi, basata sul fatto di saper fare relationship, cioè la relazione col cliente che si continua a conoscere e praticare nel territorio garantisce fregature reciproche, garantisce sia alla banca di fare impieghi a chi poi non restituisce, di cui un elevatissimo tasso di solidità e di ritorno degli impieghi praticati, che significa meno sofferenza, meno incagli, anche se non naturalmente nell'anno scorso, perché lì sono su più sofferenze per tutte, ma rispetto al resto del sistema sì, perché si conosce il cliente, e questo significa per i soci che hanno gli impieghi dalla banca poter contare su un'elevata capacità della banca di sapere praticare il merito di credito in tempi rapidi, mentre invece nei grandi istituti, come è noto, ci sono 7, 8, 9, 10 diversi livelli per esaminare le pratiche, e soprattutto chi decide non conosce, occhi negli occhi, libri contabili nei libri contabili e per storia di affidabilità dei pagamenti a clienti, fornitori, al fisco, la storia vera di chi fa toc toc in banca e nell'ultimo anno e mezzo ha chiesto e spesso si è visto negare per tutte queste ragioni, perché non lo conoscevano in tutta questa sua storia personale, impieghi che in un anno di crisi possono essere la differenza tra la vita e la morte dell'impresa. Vi chiedo per questo di chiamare all'800 24 00 24 per dirci la vostra esperienza un anno e mezzo dalla crisi, se vi siete trovati bene con la vostra banca, se ne avete dovuto cambiare, qual è il vostro giudizio sui tanti strumenti messi in atto in questo anno e mezzo, dalla moratoria sui mutui che ha avuto più di 140.000 domande e quindi molti miliardi, quasi 10 miliardi di rate riprogrammate da parte delle imprese, come vi siete trovati rispetto invece alla vostra BCC e se davvero conoscete questo mondo e come la pensate. Il nostro ospite, io ho finito di parlare, farò solo secche domande e parlerà lui d'ora in poi, è Alessandro Azzi, il presidente di Federcasse, l'associazione delle oltre 400 BCC e casse rurali italiane. Buongiorno presidente Azzi. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, iniziamo da alcuni numeri. Se dovesse dire a chi ci è in ascolto e non conosce o non ha mai fatto attenzione a questo, al sistema delle BCC, come sono uscite dalla crisi dal punto di vista un po' negativo, ciò che hanno sofferto, ma ciò che hanno saputo garantire rispetto al resto del sistema, che cifra darebbe? Anzitutto direi che stiamo assistendo alla rivincita delle banche noiose, quelle che non andavano mai sui giornali, non attiravano l'attenzione dei giornalisti e dei mass media e che pure operavano sul territorio molto consistentemente. Credo che abbiamo dimostrato che la finanza non è riservata a un santuario di pochi che gestiscono molto spesso le risorse e i depositi di tanti, ma che possa essere praticata secondo logiche e prassi di democrazia economica. Stiamo vivendo, siamo alle porte di una stagione assembleare e quindi le 400 banche di credito cooperativo italiane si riuniranno nelle loro assemblee, che significa una mobilitazione di qualche centinaio di migliaia di persone, di piccoli azionisti, proprietari del destino delle loro banche e molto spesso depositanti e anche affidati dalle loro banche, che gestiranno, valuteranno come è andato questo difficilissimo 2009 e decideranno le linee strategiche per il 2010. Oh, la interrompo subito perché a chi non ha troppo l'idea della governance bancaria, questa idea dei soci che decidono può sembrare una cosa che non funziona troppo, quasi un'illusione, no? Questa democrazia bancaria. E invece è esattamente una delle ragioni per cui le grandi banche commerciali, ma anche il regolatore, anche la Banca d'Italia, spesso aveva un occhio scettico nei confronti di questo mondo, dicendo: ma è un sistema di governance primordiale, questa roba, una testa, un voto, tanto poi non funziona, ma chi si presenta davvero a votare? Si crea quindi una governance in cui molto facilmente chi è alla testa delle banche, cioè i manager, hanno un rapporto preferenziale con le centinaia o le poche migliaia di a seconda della grandezza degli istituti, di soci che davvero contano nella banca, e poi ci si mette d'accordo. Ma è davvero così poi? Ma in realtà la dimensione media di una banca di credito cooperativo è quella di 1500-2000 soci, 2500 soci, quindi è ancora possibile la conoscenza fra di loro, la conoscenza e la verifica e il controllo di chi è stato da loro mandato ad amministrare la banca. In sostanza, il presidente, il consiglio di amministrazione di una banca di credito cooperativo che sta sul territorio non può permettersi di fare brutti scherzi ai propri soci e ai propri depositanti, in quanto lo conoscono, sanno dove sta di casa, e quindi deve essere quotidianamente consapevole di dover gestire la banca anche attraverso il management secondo delle logiche che sono soprattutto il bene comune dei propri soci e della propria comunità. E quindi da questo punto di vista è un sistema, è un criterio diverso da quello delle grandi banche ovviamente commerciali in forma di SPA, nelle quali però, questo è il mio giudizio, i fenomeni di cattura da parte dei manager dei soci non è che siano meno rilevanti, anzi, se uno va a vedere poi in concreto, questo è un giudizio che do io, non chiederei mai al presidente Azzi un'opinione su questo che lo imbarazzerebbe e non potrebbe dirmi né sì né no, quindi lo faccio stare zitto, però vi invito a riflettere, voi che siete in ascolto, sulla storia del consolidamento delle grandi banche commerciali italiane, e pensate voi se la permanenza, che non mi sembra troppo breve, di fondamentali, bravissimi amministratori, delegati e presidenti alla testa di quelle banche non formulino però un interrogativo all'ascoltatore che non sia, diciamo, sprovvisto di qualche elemento critico, e cioè se in quel caso non vi siano elementi di cattura da parte del management su azionisti, che pure in teoria dovrebbero avere una dinamica nei confronti del management molto più aperta, consentita dal codice civile, della forma appunto un po' primordiale che sembra quella delle banche cooperative, e invece no. Senta, presidente, allora l'ho interrotta su questo, ma per riflettere un secondo su questa idea della democrazia economica bancaria, invece poi rispetto agli impieghi cosa è successo nel vostro mondo? Allora, il 2009 è stato un anno nel quale anzitutto la raccolta diretta delle banche di credito cooperativo ha tenuto bene, si è fortemente incrementata, quasi di un 10% su base annua, tanto da portare a 150 miliardi di euro la raccolta complessiva. Ma effettivamente la differenza l'abbiamo avuta per quanto riguarda gli impieghi. Gli impieghi in un contesto nel quale l'economia ha avuto problemi gravi, nel quale i fatturati delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, sono stati in flessione, quindi il foglio da scontare presso le banche inevitabilmente era in riduzione. Nonostante questo, gli impieghi delle banche di credito cooperativo sono incrementati su base annua di oltre il 6% rispetto a una media di sistema, se il dato è corretto, e credo proprio di sì, intorno al 2%. Quindi significa che abbiamo sostenuto con crediti effettivi alle imprese in termini percentuali tripli rispetto alla media del sistema. Questo ha avuto degli effetti per quanto riguarda i conti economici, ma questo ci doveva essere chiesto, e questo abbiamo assolto in una logica di coerenza. Non sempre e a tutti abbiamo detto di sì, questo non era possibile, non sarebbe giusto, ci saranno state manchevolezze ed errori, ma il dato complessivo, sistemico, aggregato è molto confortante, e devo dire, anche se ci è costato, mi inorgoglisce. E dice mi inorgoglisce. In realtà se andassimo a vedere lo specifico profilo del cliente delle banche di credito cooperativo, incontreremmo dei clienti che sono anche conseguenti alla natura territoriale fortemente radicata e all'ambito in cui operano le BCC, quindi è una clientela, sto parlando in questo caso delle imprese, fortemente connaturata nelle categorie artigiani, commercianti, della piccola, piccolissima, a volte microimpresa. Ecco, da questo punto di vista, la crisi come ha visto cambiare il rapporto associativo e all'interno delle singole maggiori BCC con la rappresentanza di queste categorie. Cioè, è ovvio che in questo anno e mezzo ci sono stati strumenti che sono stati messi in atto per il rafforzamento del sostegno a queste categorie, penso a Confidi, eccetera, eccetera. Nella realtà, di fronte alla crisi, poi la microimpresa, l'impresa piccola, il reticolo vero dell'economia italiana, vi ha anch'essa riscoperta, o con loro poi, al di là della disattenzione dei media, il rapporto era stato sempre buono, forte, molto intrecciato? Il rapporto era stato certamente sempre forte. Noi di fatto diamo il 20% degli impieghi alle imprese italiane con meno di 20 addetti, e quindi questo è un dato di straordinaria importanza. Si è ulteriormente consolidato nell'epoca della crisi, quando effettivamente ci hanno scoperto quelli che non ci conoscevano, o come dire, non ci consideravano, ma quelli che già ci consideravano e che sapevano che noi siamo gli interlocutori bancari di riferimento, non hanno potuto che consolidare il rapporto con noi. Indubbiamente è capitato anche che clientela come dire, trascurata o emarginata dal resto del sistema bancario, particolarmente attento a non incamerare eccessive sofferenze o almeno incognite, si sia rivolta più frequentemente a noi. Spesso siamo riusciti a dare riscontro, non sempre. È logico che in una fase di difficoltà complessiva abbiamo dovuto privilegiare anzitutto quelli che erano i nostri tradizionali clienti. Ora iniziamo a sentire alcuni di voi che chiamano per esporci le loro esperienze. Cominciamo con Mauro da Treviso. Pronto Mauro, mi sente? Buongiorno, buongiorno a tutti, anche su ospite. Prega, ci dica. Buongiorno. Nulla, io sono da un piccolo paesino in provincia di Treviso, si chiama Monastier, dove c'è un credito cooperativo importante, e fino a un anno e mezzo fa, se vogliamo, avevo un conto corrente in una grande banca più uno appunto nel credito cooperativo, e ho sempre considerato il credito cooperativo, sì, la banca del paese, la tenevi perché la dovevi avere, perché era comodo e non altro. Mentre poi le operazioni più importanti per l'impresa la facevi con la grande, in realtà. Ma diciamo che prima non c'era nemmeno un'attività di impresa, c'era un'attività normale, sono studente, poi da piccoli lavori saltuari, c'era mio padre invece che come impresa aveva rapporto con la banca di credito cooperativo. Poi un anno e mezzo fa ha avuto un'evoluzione, ha avuto due esperienze importanti, una che è aziendale perché abbiamo aperto una società e un'altra che è privata perché ho acceso un mutuo sulla prima casa. E da lì ho cambiato opinione, devo dire la verità, non tanto per la congiuntura, quindi per quanto riguarda la mia esperienza, ma proprio per quello che è stato il tipo di approccio rispetto alla banca. Perché? Perché nella grande banca ho trovato, per quanto riguarda l'azienda, una rigidità unica e nello stesso momento anche imbarazzante a volte, perché non c'era praticamente grande margine attiva, poca fiducia nelle nuove attività, nelle esposizioni, quello che poteva essere un qualcosa che riguarda molto all'online, per esempio, che è non più il futuro ma il presente oggi per quanto riguarda il lavoro. E mentre nel credito cooperativo, al di là del fatto che ci vuole un po' più, come si può dire, c'è questo rapporto diretto che ti porta a poter spiegare che cosa vuoi fare, sì, e anche a dire quali sono le tue esigenze. E come si può dire, la cosa più importante che ho trovato è stata quella che nel momento in cui la grande esigenza era anche qualche piccolo dettaglio che però nei costi non andava incontro a quelle che erano le mie esigenze, il credito cooperativo, credendo nel tuo progetto, pur di come si può dire, tenere anche il cliente, perché poi oggi commercialmente è anche una questione di fidelizzazione, ha risposto in maniera totale a questo. Noi siamo oggi tre soci di famiglia, tutti e tre soci del credito cooperativo, con 5 conti correnti, molto felici. E quindi avendo verificato sul campo la differenza. Bene, grazie Mauro. Eccoci tornati in studio, abbiamo ospite il presidente di Federcasse, l'associazione delle oltre 400 banche di credito cooperative e casse rurali italiane, Alessandro Azzi. Stiamo facendo un punto di come il sistema del credito cooperativo ha retto e anzi ha offerto anche migliori servizi, e soprattutto ha tagliato meno gli impieghi rispetto al resto del sistema bancario italiano. Eravamo con alcuni ascoltatori dopo la prima telefonata che abbiamo mandato in onda, sentiamone degli altri e poi le commentiamo con il presidente. Abbiamo innanzitutto Cinzia da Verona. Prego Cinzia, ci dica. Buongiorno, se era possibile io volevo solo rivolgere una domanda al presidente Azzi. Prima ci ha detto che gli impieghi delle casse rurali sono aumentati del 6% rispetto a un 2% del sistema, sì, ma le sofferenze come si sono comportate nel 2009 rispetto agli anni precedenti. Benissimo, grazie, grazie Cinzia. Sentiamo poi ancora qualche altro ascoltatore, per esempio Luca, Luca da Siena. Prego Luca, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io volevo raccontare la mia breve esperienza di 20 anni della BCC. Beh, non troppo breve, insomma, 20 anni inizia a essere già un tempo esatto. Abbastanza... Ecco. È un rapporto di odio-amore, diciamo, perché la BCC è pronta a dare dei soldi, sì, non lo metto in dubbio. In questi ultimi anni con la BCC abbiamo fatto un leasing per la mia azienda, per tutto questo. Lei sta parlando di Siena città o nel Senese? Non... Provincia. Provincia. La mia attività è definita di quelle a rischio per quanto riguarda la BCC e quindi il mio affidamento, per dirla in numeri, è di circa 30.000 euro. Appena arrivo a sforare dai 4 ai 5.000 euro, quindi si parla di poche cose, puntualmente il direttore chiama una volta al giorno affinché io rientri. Questo lo trovo veramente, per così dopo dire, 20 anni, come avevamo detto, il rapporto è stretto con la clientela, come si vede. Esatto, dopo 20 anni che lavoriamo, dopo 20 anni che tutte le volte che c'è stato da pagare qualcosa è stato pagato, quindi la banca con me ha avuto dei grossi guadagni. Quindi lei ha un track record di assoluta regolarità, per così dire, dice, lei sostiene, non ha mai creato problemi. Di esatto. Rientri mai. Quindi si arriva a sforare del fido sì. Di questa cifra qua e il direttore una volta al giorno chiama. Ecco. Questo lo trovo un comportamento inammissibile. E questo diciamo riguarda la parte odio. Poi ha detto che siccome c'è un rapporto di odio, amore, anche perché sennò 20 anni non dura un matrimonio, se non c'è anche una componente positiva. C'è anche una componente positiva o no? La componente positiva è quella che ha sostenuto parte dell'azienda nella crescita, ma questo si parla di 20 anni fa. Ah. Quindi 20 anni fa sostegno, ora solo telefonate asfissianti. Esatto. Ah, questo è una cosa che la BCC, secondo me, sono banche prettamente da deposito e non da finanziamento all'azienda. Allora, la domanda è, lei ha un multiaffidamento in cui c'ha anche concomitante rapporto con banche in forma SPA invece? Esatto. E le altre come si comportano con lei? Sono molto molto più flessibili. Ah, va bene. E questa è la sua esperienza e a questo punto immagino che più delle cose le sposti verso le altre lei. Sicuramente, infatti ci stiamo muovendo in quella direzione. Però dico, sono cifre veramente irrisorie. Ho capito. Quindi è questo che proprio non riesco a capire. Allora, Luca è la prima voce critica. Sentiamo ancora Rosario dalla provincia di Como. Prego, Rosario. Sì, buongiorno. Prego, dica. Io sto facendo un'attività di trasporto con mio padre. Mio padre è circa 30 anni che è dentro in questo ramo. L'anno scorso, con la crisi e tutto il resto, avevamo avuto come... Il nostro lavoro ci ha sempre garantito, sinceramente, il nostro committente... pagamento puntuale. Una cosa che mi ha stupito tantissimo, sentivo sempre. Voi siete, mi pare di capire, Rosario, per far capire meglio a chi è a casa, siete monocommittenti o comunque con pochi committenti? Pochi committenti. Perché questo esatto. Fa la differenza nell'anno e mezzo di crisi, esatto, perché come sa chi ha pochi committenti che tendono poi a diluire moltissimo i tempi di pagamento sono andati in crisi assoluta, quindi bisogna esatto. Avere a quel punto pochi committenti ma buoni, per cui il rapporto è così buono nel tempo che continuino a pagarti senza troppi ritardi, se no vai nei guai. Ecco. No, anche perché noi abbiamo questo committente che mi fa da appunto 30 anni che è perfetto, questo, e quindi lei diceva, e in questo ramo in cui siete il vostro rapporto con le BCC? Diciamo pure che la banca di grosso, cioè in questo caso la banca molto importante, ha sempre avuto dei grossi problemi, appena sforavi un po' dalla, come diceva lo spottatore precedente, appena sforavi di 200 euro ti chiamavano e ti dicevano guarda che sei fuori dal fido e tutto il resto. Questo le banche in forma SPA, le banche commerciali private, esatto. Ecco, quindi lei ha l'esperienza opposta rispetto al nostro ascoltatore del SNS. Esatto, al contrario della banca, quella un po' più piccola, diciamo che l'anno scorso, nonostante la crisi e tutto il resto, il nostro settore era molto a rischio. Ci ha proposto, noi avevamo un finanziamento in cadenza, ci stava finendo appunto, ci hanno riproposto ancora un altro finanziamento perché hanno visto che, come si dice, noi eravamo solubili, e di conseguenza, cioè, è stati loro che ci hanno proposto di fare questo rinnovo, appunto, di queste finanziamenti. Quindi sinceramente noi siamo propensi a portare tutto nella banca un po' più piccola. Beh, anche perché si hanno un rapporto diretto, cioè non, se si sfora un po' dalla, diciamo pure dalla, si dice, dal fido, non ti chiamano, sì, ti dicono guarda che succede così, punto, e finisce. Va bene, quindi Rosario, ci, Rosario insieme al padre Ramo Trasporti, ditta individuale, ci propone un'esperienza completamente diversa. Infine l'ultima chiamata, poi passiamo ai commenti, con Carlo da Latina. Prego Carlo, ci dica. Buongiorno. Io non ho bisogno di credito cooperativo, io volevo sapere se posso essere un investitore, sono un privato. Può essere un investitore di una banca di credito cooperativo, cioè comprare azioni o comprare obbligazioni, quello che la banca. Cioè la domanda è come si diventa socio, attraverso che strumenti, in che proporzioni, in che forme di una BCC. Grazie Carlo. Allora cominciamo con il presidente Azzi a vedere un po' di punti positivi, negativi. Ci sono due risposte concrete da dare, poi la prima da cui siamo partiti, le sofferenze relative alla crisi, e quest'ultima invece su come si diventa investitori in una BCC e con che limiti e forme. Bene, partiamo con le sofferenze, direi. Sì, anzitutto mi pare che sia stata una rappresentazione interessante dello scenario dei clienti bancari e in particolare delle banche di credito cooperativo. Allora, le sofferenze nel credito cooperativo, stiamo raccogliendo i dati dalle oltre 400 banche, sono incrementate su base annua dal 30 al 35%. Consideriamo che gli impieghi sono incrementati del 6%, capiamo che stare vicini all'economia reale nell'anno della crisi ci è costato, e ciò nonostante, come dicevo, lo abbiamo fatto consapevolmente, continueremo a farlo, ovviamente anche selezionando, perché il banchiere, grande o piccolo che sia, che non seleziona e non gestisce bene i prestiti che ha fatto, non è un buon banchiere, non gestisce bene la raccolta dei depositanti. Partirei ancora da Mauro, prima dell'intermezzo pubblicitario di Monastier, che ci ha dato una rappresentazione molto interessante della flessibilità e rapidità con la quale la sua banca di credito cooperativo, quella di Monastier e del Sile, che ben conosco, lo ha sostenuto in questi momenti difficili. Tra l'altro interrompo solo per dire che evidentemente il pubblico deve avere una sensibilità sul tema, perché la telefonata dell'ascoltatore dalla provincia di Siena sta scatenando una raffica di messaggi di ascoltatori che smentiscono l'ascoltatore di Siena. C'è qui uno che dice: la mia azienda è stata salvata proprio dalla BCC 4 mesi fa, non posso che ringraziare il fatto che mi è stata concessa un'operazione di leasing che nessuno ci riusciva ad autorizzare nelle banche SPA. Dipende dal rapporto che si ha con il personale, forse l'ascoltatore di Siena non dice fino in fondo la verità sulla regolarità dei suoi pagamenti. Naturalmente io rispetto tutti, ma era solo per dirle che ci avete dei fan. Questo plebiscito popolare non può che entusiasmarmi. Avete dei fan. Allora, prego, continui, a interrompere. Dunque, ogni caso fa storia a sé, bisognerebbe conoscerlo nei particolari. Non conosco il caso di Luca di Siena, ma sostanzialmente vorrei partire proprio dalla sua premessa, quella del rapporto odio-amore con la sua banca di credito cooperativo. Vediamolo come un amore litigarello, e quindi un amore nel quale ci sono stati momenti difficili, una grande passione iniziale, quella che ha consentito a Luca di partire con la sua attività grazie alla BCC, e fasi complesse nelle quali lui soffre particolarmente questa marcatura stretta che il responsabile della sua filiale gli pone quando esce dal fido. Per il vero, se i fidi ci sono e sono di una certa entità, occorrerebbe rispettarli. Casomai si va a chiedere un incremento del fido e poi si resta nei limiti del fido che c'è. Paolo da Parma: sono un piccolo imprenditore, nel 2009 prendo difficoltà, 3 grosse banche nazionali mi hanno chiesto rientro dei fidi con probabile chiusura della mia società e licenziamento di 14 dipendenti. Ho chiesto aiuto a 2 BCC locali che mi hanno ascoltato e dato ancora fiducia. Oggi, 5 mesi dopo, ci stiamo riprendendo e stiamo lavorando serenamente con le BCC che hanno semplicemente creduto al nostro prodotto e alla nostra capacità Papa c'è la direzione della crisi. Non si tratta di suonare il violino, ma di dire le cose come sono capitate a noi nella nostra impresa. Paolo da Parma, prego. Elemento di moderazione che mi tocca fare. È chiaro che le banche di credito cooperativo non sono la quintessenza di tutte le virtù, no? E quindi errori ne facciamo anche noi. Di fatto però la sostanza di essere sul territorio e di avere come padroni i nostri soci chiaramente ci porta a impegni e a accompagnamento che forse altre banche o filiali di altre banche non sentono nella stessa maniera, pur svolgendo anch'esse un ruolo prezioso e insostituibile. A questo proposito, Presidente Arzi, la teoria classica di solito postula la superiorità del modello della grande banca commerciale in forma SPA e così via, dice che ad avere soci a cui si danno gli affidamenti si corrono due rischi tradizionali. Uno è quello del cosiddetto hold up, cioè la banca può approfittarne conoscendo così bene i propri soci eccetera eccetera, tendendo a imporgli un costo medio delle operazioni o del capitale intermediato superiore, perché il socio a cui si dà l'impiego si sente un pochino, non dico prigioniero, ma quasi nella banca, e quindi la banca tende ad approfittarne. Il secondo rischio, capovolto per così dire, è un rischio di azzardo morale, cioè che alla fine le banche si possano concentrare fin troppo negli affidamenti ai propri soci, tanto da rischiare un po' troppo poi del proprio patrimonio. Ecco, storicamente questi due rischi teorici del sistema del fare banca attraverso il sistema relazionale, nella realtà poi si sono rivelati fondati nel nostro paese oppure no? Cioè avete il sistema bancario cooperativo, ricordiamolo a chi è a casa, ha una storia di fallimenti per cui ha dovuto pagare il contribuente, come talvolta è capitato per le banche commerciali del sud? Assolutamente no, abbiamo un fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo che gestiamo autonomamente. Nessun depositante e anche socio azionista di una BCC ha mai perso un euro, e questo grazie agli interventi di sostegno che in una logica di solidarietà di categoria abbiamo sviluppato, perché è chiaro che in una componente di 400 soggetti ce ne sono che talvolta hanno delle difficoltà e alcuni di questi non hanno saputo stare sul mercato, ma li abbiamo recuperati attraverso aggregazioni con altre banche di credito cooperativo. Credo però che l'elemento fondamentale, tornando alla domanda di prima, sia la finalità, la mission cosiddetta. Una banca di credito cooperativo non ha come finalità quella di dare profitto ai propri azionisti, ma la finalità di dare una operatività bancaria sul territorio nell'interesse complessivo della comunità. Tant'è vero che non c'è capital gain, cioè non c'è un mercato di compravendita delle azioni delle banche di credito cooperativo, e non si distribuiscono gli utili che vanno a riserva e costituiscono quindi un patrimonio della banca e quindi dei proprietari della banca, ovvero della comunità. Una banca con queste caratteristiche non può sottrarsi all'impegno quindi di accompagnare le famiglie, le piccole e medie imprese del territorio, perché la crescita del territorio è la crescita della banca, e la crescita della banca è la ricchezza del territorio. Ed è la finalità, per così dire, costitutiva. Questo naturalmente può non rispondere troppo bene al nostro ascoltatore che chiedeva: voglio diventare socio, ma mi conviene, cosa posso fare? Eccoci tornati in studio, siamo con Alessandro Arzi, presidente di Federcas, stiamo parlando del bilancio, per così dire, come grande aggregato di fronte alla crisi del sistema delle banche di credito cooperativo. Ci eravamo fermati un secondo di fronte alla finalità caratteristica consustanziale a quella di una banca di credito cooperativo, quella della crescita degli impieghi con i propri soci nel territorio rispetto ai capital gain. E quindi conviene a qualcuno diventare socio di una BCC, perché? Allora, la BCC è una società di persone, non una società di capitali. Se Carlo di Latina è interessato a acquistare azioni della banca di credito cooperativo per poi rivenderle e guadagnarci, cosa che sarebbe del tutto legittima per un'altra forma societaria, bancaria o meno, non entri e non diventi socio di una banca di credito cooperativo, perché queste prospettive non saranno realizzabili. Se invece Carlo è interessato a diventare socio trattino azionista, noi li chiamiamo soci, ci piace di più che azionisti, della banca di credito cooperativo, perché vuole avere condizioni bancarie più vantaggiose come socio e quindi come proprietario di quelle che troverebbe sul mercato, allora entri, perché avrà dei riscontri interessanti sia come depositante che eventualmente come prenditore di denaro. E in più potrà partecipare all'assemblea della banca di credito cooperativo, ovvero quel momento nel quale si definiscono le strategie di un'entità finanziaria presente sul territorio che ha come obiettivo la crescita complessiva del territorio, sostenendo le piccole imprese, gli enti locali, le iniziative senza scopo di lucro, le associazioni e in termini di beneficenza, in termini di sostegno complessivo al bene comune del territorio. Presidente, vogliamo ricordare un secondo ad alcuni ascoltatori che fanno ancora un po' di confusione e le chiedono, ma banca di credito cooperativo e banca popolare sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa, ma spieghiamolo a chi non è un esperto tecnico. Sia le BCC che le popolari sono banche cooperative e quindi in entrambe funziona il principio del voto capitario. Ogni socio conta per uno a prescindere dalle azioni che ha sottoscritto. Per il resto ci sono molte differenze, soprattutto quella che gli azionisti di una banca popolare possono trarre vantaggio dall'acquisto e dalla vendita delle azioni, e quindi la banca ha come finalità anche quella della massimizzazione del dividendo, del profitto per l'azionista, pur essendo impegnata anche a iniziative di territorio. In una banca di credito cooperativo questo aspetto, quella della valorizzazione della partecipazione azionaria fine a se stessa in termini speculativi, non c'è, e la banca invece ha come finalità la crescita complessiva del territorio. C'è anche un aspetto oggettivo che è quello dimensionale. Normalmente le banche di credito cooperativo sono di dimensioni molto più modeste rispetto alle banche popolari e quindi da questo punto di vista riescono probabilmente meglio a gestire i loro terminali, la loro presenza e il controllo dei soci sui gestori della banca rispetto ad una grande banca pur cooperativa ma di dimensioni decisamente più complesse. Ci sono ancora ascoltatori, vediamo quanti riusciamo a sentirne. Cominciamo con Marco, Marco D'Alecco. Prego Marco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a voi. E volevo portare una piccola esperienza. Io mi occupo di impianti fotovoltaici come venditore, settore commerciale, e questi impianti vengono sempre supportati da finanziamenti bancari di fatto. È una cosa un po' nuova, ma un po' conosciuta. È importante sottolineare come per le banche siano a bassissimo rischio finanziare questo tipo di investimenti, infatti fanno sempre mediamente spread molto bassi. Quindi in questo caso stiamo parlando di un finanziamento al suo cliente che si impegna ad acquisire l'impianto nell'ambito, esatto, di un progetto per il suo immobile di utilizzo commerciale o privato, sì, eccetera, di efficienza energetica. Sì, sì, ma sono sia imprese che famiglie che fanno questo. Sì. Di solito le banche fanno un'istruttoria classica, cioè valutando la patrimonialità e la reddituità del cliente, sì, però hanno molto abbassato grazie ai contributi. E statali. Nella sua esperienza in questo particolare tipo quindi di impiego, ecco, qual è? Ho notato che l'anno scorso ho portato circa 1 milione di euro di clienti nelle banche a finanziare. Cerco di dare un servizio chiave in mano, per cui porto al cliente, gli do la banca, gli porto tutto. Sì. E ho notato che le piccole banche, soprattutto quelle cooperative, ma anche quelle popolari, tutto sommato, hanno reagito benissimo, cioè venivano loro, quando hanno capito che funzionava sono venute loro a cercarmi, amicizie, persone che mi conoscevano, grandi banche anche interpellate direttamente perché magari il cliente era già cliente della banca eccetera, a parte un caso che se volete poi vi faccio anche il nome, non hanno saputo cogliere il business, cioè non hanno saputo cogliere impieghi facili a bassissimo rischio che hanno sicuramente aiutato queste banche a fare business e aiutato le persone a fare gli impianti. Grazie, mi pare di capire che non è che c'è molto da commentare, la sua è un'esperienza positiva. Abbiamo qui da Siena, che ho capito che abbiamo acceso un falò, c'è Luca da Siena che ci chiede, anche se però gli posto la linea proprio per 20 secondi e non di più. Prego Luca. Salve Oscar, omonimo dell'altro Luca che mi ha preceduto, sì, è un'esperienza completamente perché, diversa. Infatti a dire la verità te me avevo capito che era lo stesso, per questo tendevo a non dare la linea, ma comunque di. No, sono una persona diversa, io ho un'esperienza diversa, forse un suggerimento all'altro Luca, noi abbiamo nella provincia una grande banca, forse si dovrebbe rivolgere a lui. Una a caso, senza farne il nome, perché da Siena capiamo tutti di che si parla. Non lo facciamo, forse avrebbe avuto un trattamento l'avesse comparato, forse avrebbe avuto. Vabbè, vabbè, ma dai, facci capire che non è che ti manda una BCC dalla provincia a difendere. No, assolutamente no. In più porto il valore anche di amministratore pubblico. Sì. Oggi avete parlato di piccoli imprenditori, la vicinanza e l'importanza che hanno avuto le BCC anche a sostegno degli enti locali, perché quando i governi centrali hanno dato misure anche sul... Cioè tu hai esperienza come un'amministrazione locale che si è appoggiato alle BCC per la tesoreria? Assolutamente. Quando è stato fatto il bando, le uniche a rispondere, l'unica, perché poi la BCC locale non è che sono tante, in un territorio ce n'è una, certo, ma l'unica a rispondere in maniera pronta, sollecita, con un'offerta decente, è stata la BCC del luogo, e ha portato in campo non solo l'offerta economica vantaggiosa, ma anche la possibilità di essere una banca che era con il quale ad oggi esiste ancora il rapporto, ovviamente, di business fa ente locale con la quale può parlare. Grazie, cosa che le altre banche... Grazie Luca, ti devo levare la parola perché nel dare per l'ultimo minuto e mezzo il commento finale al Presidente Azzi, gli devo chiedere un aspetto dei tanti che non abbiamo ancora toccato, perché tradizionalmente il settore della BCC aveva rispetto alle banche maggiori, quelle commerciali in forma SPA, un problema, per così dire, una caratteristica, che il rapporto dei costi sull'income tradizionalmente era più pesante, cioè voglio dire, il modello territoriale e il modello per cui non si hanno queste enormi masse amministrative, ma si sta concentrato sugli impieghi pur avendo una raccolta ben remunerata rispetto ai maggiori rischi delle banche commerciali, però implica che il costo del personale eccetera eccetera insomma si fa sentire. Allora le chiedo, nel nuovo sistema bancario come esce modificato dalla crisi e così via, questo problemino particolare del costo sul rispetto al totale dei ricavi è una ricchezza perché significa capitale umano, oppure è un onere, è qualcosa che poi per remunerare pagano i clienti, per così dire? Ma dunque la considerazione di fondo è questa: ammettendo che il complesso della raccolta degli impieghi gestito dalle 400 banche di credito cooperativo, 150 miliardi dicevamo di raccolta, 125-130 di impieghi, fosse gestito da un soggetto bancario solo, e ci sono dei soggetti bancari più o meno di queste dimensioni, è chiaro che ci sarebbero dei costi fissi molto inferiori, perché 400 consigli di amministrazione, 400 direttori generali e 400 tante altre cose tante volte di fatto comportano dei costi, e quindi questo determina la necessità di recuperare in qualche maniera. Ora siamo compensati dal fatto che non dobbiamo dare dividendo agli azionisti, per quanto dicevo prima, e quindi soprattutto impegnarci a fare buone condizioni, e questo alla fine compensa. Ciò che ci fa vincere è la capacità relazionale, quella che abbiamo riscontrato anche da questa serie di telefonate. Concludo con questa considerazione: alla fine i migliori testimonial del credito cooperativo non sono stati Alessandro Azzi questa mattina, ma tutti gli ascoltatori che sono intervenuti, che hanno dato... Chi a casa sa che è casuale, cioè voglio dire, mica siamo noi che, certo, mettiamo in onda questi. Che hanno dato dimostrazione di come ci sia un forte spirito di squadra e un orgoglio di appartenenza. Chi conosce una banca di credito cooperativo e spesso neanche socio si sente difeso, si sente tutelato, si sente partecipe e coinvolto, si sente protagonista. E essere protagonisti nella finanza, mi consenta, è una cosa veramente straordinariamente importante. No, ma anche importante, perché di questi tempi poi, sì, insomma, non è che siano tanti protagonisti che hanno gente che non li tira le scarpe dietro. A sentire tutto questo mi sono divertito e sono rimasto molto confortato. Grazie Presidente, mi stanno tirando le scarpe in testa perché ho bucato per un minuto, mi scuso con tutti i colleghi, dopo non avverrà mai più, si fa per dire. A domani l'appuntamento, ovviamente, grazie a Fabio Cantatore in regia, Alessandro Marcotulli e Guido Scotti in redazione, la linea al Giornale Radio. Grazie al Presidente Azzi ancora. Thank you.